Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti da Deborah Rosciani a Salva Danaio e naturalmente come sempre buon inizio settimana. Da quando è tornato ad essere operativo, era il 27 aprile scorso, il fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa è stato utilizzato da ben 2.200 famiglie italiane che hanno così potuto sospendere per un massimo di 18 mesi il pagamento delle rate dei mutui, perché appunto probabilmente si era verificato uno dei requisiti richiesti appunto per poter accedere alla misura, la perdita del posto di lavoro, decesso o grave infortunio del mutuatario. Dei 20 milioni di euro stanziati per questa iniziativa, il residuo ammonterebbe adesso a circa la metà, 10 milioni che si stima però potrebbero esaurirsi presto, entro la fine dell'anno. Sappiamo quanto è difficile oggi pagare un mutuo e a tante famiglie che faticano ad arrivare a fine mese potrebbe servire un periodo di tregua per riprendersi da un momento di difficoltà. Allora, noi torniamo a spiegare il funzionamento di questo strumento, anche perché è stato fatto un punto della situazione qualche giorno fa in un tavolo tecnico appunto che si è svolto a Roma tra le associazioni dei consumatori, l'ABI, l'associazione delle banche italiane appunto, ma vi hanno partecipato anche altre personalità che adesso tra un po' vi presenterò. E quindi allora chiamateci all'800 24 00 24, raccontateci se avete bisogno di sospendere il mutuo, se avete già fatto questa richiesta alla banca, che risposta vi è stata data. Vi potrebbe servire usufruire di questo fondo? Conoscete i requisiti necessari? Oltre al numero verde potete scriverci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Siamo su Facebook al profilo salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Buongiorno e benvenuta alla Presidente Nazionale di Feder Casalinghe, Federica Rossi Gasparrini. Presidente, buongiorno e bentornata. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti voi. La grande animatrice di questa iniziativa. L'avvocato Giulio Ascioti, responsabile Dipartimento Fondi di Solidarietà di Consap, che è la concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, una società che fa capo al Ministero dell'Economia e che è l'incaricata di organizzare proprio in termini pratici questa elargizione sostanzialmente di questo fondo alle famiglie che ne fanno richiesta. L'ho detto in maniera molto molto semplice, avvocato Ascioti, poi chiaramente entreremo più nel dettaglio. Bentornato a Salva Danaio anche a lei. Grazie, buongiorno. E buongiorno e benvenuto l'avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'Associazione Casa del Consumatore. Buongiorno a voi. Presentato tutti gli ospiti, naturalmente ricordo ancora agli ascoltatori in ascolto ovviamente, che possono chiamarci all'800 24 0024. Prima di tutto però un'occhiata all'andamento dei mercati finanziari. Giornata interessante oggi in borsa perché abbiamo diverse facce dei mercati finanziari. Allora, intanto situazione contrastata fra gli indici del vecchio continente, perché qua oggi è Milano, che è la più penalizzata d'Europa, sta perdendo mezzo punto mentre mantengono il territorio positivo alle altre piazze europee, che per la verità un'oretta fa andavano anche meglio e guadagnavano tutte oltre mezzo punto, adesso invece sono in rallentamento. Parigi più 0,25%, Francoforte più 0,26%, Londra più 0,26% e Milano invece, come vi dicevo, perde oltre mezzo punto. Vendite molto copiose sulle banche. La Popolare di Milano meno 3,19, Popolare dell'Emilia Romagna meno 2,13, Gtech, la ex Lottomatica meno 2, Mediobanca meno 2, Ubibanca meno 2, Banco Popolare meno 2, Monte dei Paschi meno 1,91. E questa è una situazione strana perché invece stamattina il Tesoro ha collocato senza problemi 8 miliardi e mezzo di euro del nuovo bot a 6 mesi e il rendimento chiesto dal mercato è tornato sotto l'1%, allo 0,8%, a giugno il mercato aveva chiesto l'1,05. Siamo ancora però un pochino lontani dai minimi che erano stati toccati lo scorso mese di maggio, allo 0,53%. Andiamo a vedere i migliori titoli di Piazza Affari: Fiat più 2,78, Azimut più 1,36, Campari più 0,8, Pirelli più 0,7% con Mediolanum. È stata molto nervosa stamattina anche la seduta in Asia, Nikkei ha chiuso con un ribasso del 3,32%, Shanghai meno 1,72%, Hong Kong meno 0,54%. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi: mutui, 2.200 sospensioni con il fondo di solidarietà. Sono circa 2.200 le famiglie italiane che hanno ottenuto la sospensione del pagamento del proprio mutuo a partire dal 27 aprile, giorno in cui è stato riattivato il fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa. che consente di sospendere le rate per 18 mesi in caso di perdita del posto di lavoro, decesso o grave infortunio. Per questa seconda edizione del fondo, la prima iniziativa è datata 2010, lo Stato ha stanziato 20 milioni di euro con il decreto Salva Italia. Ci si può recare in banca e chiedere lo stop, naturalmente se si hanno i requisiti. La domanda può essere presentata se il mutuo non è superiore ai 250.000 euro e se l'indicatore ISEE del reddito annuo non supera i 30.000 euro. Per il periodo di sospensione non si accumulano commissioni da pagare alla banca. Il fondo restituisce infatti agli istituti i costi relativi agli interessi maturati, in misura pari al tasso applicato al mutuo, escludendo quindi il solo cosiddetto spread, ovvero il ricarico applicato dalla banca. Si stima che circa la metà del fondo sia stato consumato dalle richieste e che quindi restino circa 10 milioni di euro a disposizione delle famiglie che si trovano attualmente in difficoltà o che vi si troveranno nei prossimi mesi. Le risorse potrebbero esaurirsi nel giro di poco tempo, come fanno notare l'ABI e le associazioni dei consumatori, e il fondo dovrà essere finanziato entro la fine dell'anno per evitarne il blocco dell'operatività. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande se volete intervenire in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666, il numero per i vostri sms. Inizio subito con l'onorevole Federica Rossi Gasparrini, presidente nazionale di Federcasalinghe, l'ideatrice nel 2007 della prima versione del fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa. Sono state presentate appunto nel corso di questo tavolo tecnico che è stato organizzato nei giorni scorsi, onorevole Rossi Gasparrini, i risultati di questa operazione seconda versione, perché ricordiamo che questo fondo di solidarietà ha accorpato anche l'altra iniziativa di sistema, che era quella predisposta appunto dall'ABI sempre con le associazioni dei consumatori, la famosa moratoria, no, sui mutui. I risultati raggiunti fino a questo momento vi hanno colpito: 2200 sospensioni in appena un mese, o più o meno erano i risultati che vi attendevate? No, hanno colpito, perché arrivano circa 100 domande di sospensione al giorno e quindi è un ritmo elevato. Va detto che, ritornando anche al fondo famiglia ABI, sono state accolte oltre 100.000 domande, il che vuol dire che il bisogno di sostenere la famiglia in un momento di particolare difficoltà, perché non perda la casa, è un momento importante. Adesso esiste ancora solo il fondo di solidarietà. Ricordo che nel discorso di insediamento il presidente Letta ha dichiarato che avrebbe rifinanziato il fondo di solidarietà per i mutui, e quindi l'iniziativa comune del tavolo tra ABI, associazione e sottosegretario al tesoro Baretta, che abbiamo avuto il piacere di avere con noi, sono importanti intanto per ricordare al Presidente del Consiglio e a tutto il Governo l'impegno a rifinanziare il fondo, ma fare di più. Evidentemente quello che succede dimostra un bisogno costante. Nella vita uno può decidere giustamente di poter comprare una casa e poi la vita può interrompere questa sua volontà momentaneamente. C'è bisogno di uno schema di difesa. Io voglio dire che su questo si è giocato molto anche dell'attività del Ministero del Tesoro, che ha cercato in tutti i modi di mandare avanti il fondo. Adesso solo una volontà politica di fare tre cose: rifinanziare il fondo per il 2013, stabilizzarlo, cioè quindi renderlo una misura strutturale sostanzialmente. Esatto, una misura strutturale con un finanziamento costante che noi presumiamo possa essere individuato in 20 milioni di euro l'anno. Fatto queste tre cose, i cittadini italiani hanno una tutela in più, ed è una tutela che ha un valore. Allora, ecco, lei tra l'altro diceva così un po' descriveva la situazione nella quale molte famiglie si sono trovate loro malgrado negli ultimi mesi, perché tutti coloro che hanno una casa e l'hanno acquistata negli ultimi anni sicuramente non prevedevano una crisi economica così forte, tale da far perdere un posto di lavoro appunto all'interno della famiglia stessa. Infatti lo stesso sottosegretario Baretta ha descritto questo fondo di solidarietà come una modalità innovativa di ammortizzatore sociale nei confronti del quale, ha detto lui stesso, il governo non può che confermare la massima attenzione. Quindi speriamo che possa essere rifinanziato il provvedimento quest'anno e soprattutto che si possa trasformare in finanziamento strutturale. Allora andiamo a sentire le associazioni dei consumatori, anzi sentiamo subito gli ascoltatori e così animiamo immediatamente la nostra trasmissione. Sentiamo chi invece ancora non è riuscito a sospendere il mutuo, quali difficoltà ha, che risposte ha avuto da parte della propria banca. Ileana da Torino inaugura le telefonate di questa mattina, buongiorno. Buongiorno. Ci dica, sì, cosa le è successo? Senta, io ho sospeso il mutuo da febbraio di quest'anno fino al prossimo anno di febbraio perché mio marito è in cassa integrazione e io ho perso il lavoro. Volevo solo sapere la rata con quanto aumenterà, perché penso che da febbraio prossimo anno la rata mi dovrebbe aumentare. Ileana, la banca non le ha fatto un prospetto di quello che succederà alla rata? No, mi ha mandato a casa solo un foglio dicendo guarda, è sospeso il mutuo da febbraio 2013 a febbraio 2014 e basta. Allora adesso noi non le possiamo dire intanto che nuova rata si troverà a febbraio perché dovremo vedere tutto il piano di ammortamento, bisognerebbe vedere che tipo di mutuo ha sottoscritto, a quali condizioni eccetera, e poi Ileana, credo che avendo sospeso a febbraio lei non ha utilizzato il fondo di solidarietà ma la precedente moratoria, quindi era un'altra iniziativa. Detto questo, ci consente la sua situazione di fare un punto della situazione da un punto di vista diverso. Non so, magari chiedo alla dottoressa Rossi Gasparrini se vuole fare subito un commento su questo caso, perché poi tra l'altro ci deve lasciare qualche minuto prima degli altri ospiti e poi andiamo magari anche con l'avvocato Ferrari. Onorevole Rossi Gasparrini. Intanto anticipo che a fine del febbraio 2014 la signora potrà credere ulteriori 6 mesi sul fondo di solidarietà, perché è stato concordato che essendo il fondo famiglia ABI stato di 12 mesi e quello invece pubblico di 18, possono essere richiesti ulteriori 6 mesi con le condizioni certo. diverse. Detto che non glielo auguriamo, perché speriamo che all'interno di questa famiglia si possano essere ripristinate le normali condizioni di entrate e del reddito appunto che arriva, ecco, detto questo, appunto, per il resto del suo problema? Per il resto del suo problema deve ritornare alla banca e farsi dare il prospetto scritto, e ci manca, infatti. Proprio definito e ben preciso. Quindi Ileana, guardi, se non riesce ci scriva a salvadanaio@radio24.it, ci dia i termini appunto della banca, qualche dettaglio in più sul suo mutuo e magari se lei non ci riesce ad avere delle risposte corrette appunto le cerchiamo noi per lei. Avvocato Ferrari, che cosa ci suggerisce il caso che abbiamo ascoltato? Il problema è sempre quello, adesso la banca per carità del cielo ha fatto il suo, è venuta incontro a questa famiglia, ha sospeso per un anno il mutuo, mi pare strano che non abbia questa ascoltatrice la documentazione su che cosa le succederà quando riprenderà a pagare. Allora, intanto per quanto riguarda il fondo di solidarietà che adesso è vigente, la regola è che il fondo si fa carico degli interessi che verrebbero maturati nel periodo di sospensione del mutuo, quindi dopo si riprende il pagamento delle rate come prima, ovviamente si allunga la durata del mutuo perché è stato sospeso per un determinato periodo e alla fine viene caricato lo spread, cioè quella differenza di guadagno che ha la banca rispetto ai tassi, Euribor per i tassi variabili oppure per i tassi fissi il termine di riferimento è l'altro europeo, per adesso mi sfugge. L'IRS. E in questo caso vengono poi caricati queste somme, diciamo, che non sono state addebitate nel periodo di sospensione alla fine della durata del mutuo. Quindi uno dopo la sospensione riprende il pagamento delle sue rate e poi al termine avrà un prolungamento del piano di ammortamento con l'addebito diciamo dello spread che è maturato certo. nel periodo di sospensione. Detto mentre questo però la banca è nella capacità di spiegare bene che cosa succede una volta che è terminata la sospensione appunto alla rata della persona che ne fa richiesta della sospensione stessa. Certo, poi diverso è il caso della signora, perché la signora invece, come facevi giustamente notare, deve aver usufruito della sospensione, quella negoziata tra l'associazione consumatori e l'ABI, e lì si trattava soltanto di una sospensione del pagamento generate relativi interessi che continuavano. Avvocato Ferrari, ma in che stanza sta? Che sentiamo malissimo il telefono. Senta, facciamo una cosa, adesso Valentina Magri che mi assiste oggi e ripristina la telefonata. Siamo sfortunatissimi ultimamente, non so che cosa succede, ma o la qualità dei collegamenti telefonici è, come dire, in termini generali pessima, oppure qualcuno non vuole che parliamo di questi argomenti. Sto scherzando chiaramente. Comunque adesso ritorniamo all'avvocato Ferrari. Quello che io voglio ribadire, appunto, che secondo me però la banca deve essere in grado di dire che tipo di rata avrà nel momento in cui riprende a pagare. Adesso andremo all'attività della Consap, però se vuole l'avvocato Giulio Ascioti può anche commentare il caso che abbiamo appena sentito. Avvocato, di nuovo buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei. No, mi spiace, non posso commentare questo caso, ovviamente, perché non ne conosco i termini e non sono questioni sulle quali la Consap può intervenire. Andiamo alla vostra attività. Invece la Consap è quell'istituto che fa capo al Ministero dell'Economia, che è proprio incaricato sostanzialmente di erogare, come dire, questo alla banca, di sostituirsi praticamente alla persona che richiede la sospensione del mutuo nel pagamento degli interessi alla banca stessa. Esatto, Consap intrattiene rapporti solo con le banche, al di là di un contact center dedicato che noi abbiamo a disposizione anche dei cittadini, ovviamente, ma formalmente e sostanzialmente l'istanza di sospensione del mutuo è un qualcosa che ci perviene dalla banca attraverso un sistema, diciamo, di avanzata informatizzazione che consente nel giro di 15 giorni a Consap di poter deliberare sull'accoglimento o meno dell'istanza di mutuo con relativa comunicazione alla banca e poi effettiva attivazione del periodo di sospensione. Questo è quanto. Certo, è vero, avvocato Ascioti, che la procedura per dare una risposta alle persone che ne fanno richiesta rispetto alla prima edizione del fondo adesso è diventata molto più fluida? Assolutamente sì, guardi, due fattori intervengono. Il primo, il fatto di aver meglio circoscritto le ipotesi di accesso al fondo, che da una parte ampliate molto opportunamente anche alla perdita di lavoro dipendente a tempo determinato, che era esclusa nella prima fase di operatività del fondo, prima di tutto ha consentito al fondo stesso, diciamo, di rispondere più adeguatamente a quello che in fondo è il caso più frequente che noi abbiamo verificato di richiesta di sospensione. Mm-hmm. Dall'altra un progresso nella informatizzazione dell'attività ha consentito a Consap e alle banche stesse, aggiungo, di essere molto più sollecito, di avere molti meno dubbi, molte meno questioni che richiedono analisi ulteriori e così via. Il tutto va ricondotto alle tre motivazioni principali, che sono appunto la perdita di lavoro di lavoro di tipo dipendente, la morte del mutuatario e non di altre persone o di un comutuatario, o l'handicap grave o l'invalidità che colpisce sempre un mutuatario. Certo. O un comutuatario. Certamente queste situazioni, lo ricordo, devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto. Ha qualche dato, avvocato Ascioti? Proprio recentissimo, sì. Innanzitutto confermo le 2200 istanze accolte, che costituiscono, diciamo, in questa seconda fase, quindi dal aprile ad oggi, che costituiscono circa l'80% delle istanze esaminate, con ciò un miglioramento sensibilissimo rispetto alla prima fase, laddove le istanze accolte erano poco più del 55% di quelle esaminate. In secondo confermo che il caso principe di sospensione è costituito dalla perdita del posto di lavoro, che assorbe praticamente il 94% delle istanze accolte, certo, mentre gli altri due casi, ognuno dei due assorbe il 3% delle istanze. Benissimo, abbiamo fatto un primo punto della situazione. Vi chiedo adesso un minuto di pazienza perché abbiamo il nostro primo blocco pubblicitario. Non vi dico quante telefonate stanno arrivando, per cui un po' di pazienza anche per Pietro da Milano, Enrico da Milano, Sergio dalla provincia di Frosinone e onorevole Rossi Gasparrini. Le anticipo già che, come era facile intuire, stanno arrivando molte richieste di aiuto da parte di lavoratori autonomi, che è l'altra grande partita che l'Associazione dei Consumatori lavoratori, con l'onorevole Rossi Gasparrini e altre appunto organizzazioni, stanno cercando di giocare al tavolo del Ministero dell'Economia, perché per queste persone, se non riescono più a pagare il mutuo, non c'è nessun tipo di sostegno o di intervento e ne hanno tutto il diritto. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Oggi parliamo del Fondo di Solidarietà per i Mutui Prima Casa, che consente a chi è in difficoltà economiche di sospendere fino a 18 mesi, quindi per un anno e mezzo, il pagamento dell'intera rata del mutuo che è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale. Questo fondo è operativo da qualche anno, fino ad ora ha consentito la sospensione di circa 6.000 mutui nella versione che è partita il 27 aprile, che ha inglobato anche la moratoria sui mutui dell'ABIL Piano Famiglia. Praticamente sono state sospesi i mutui a 2.200 famiglie italiane. Oggi stiamo ribadendo quali sono i requisiti per poter far richiesta alla banca appunto per ottenere questa sospensione, e però appunto ci sono molte persone, come quelle che ci stanno telefonando, che in realtà vanno in banca e si sentono rispondere appunto no, grazie, perché i requisiti appunto non ci sono. Ed uno fondamentale è quello che ci racconta Enrico da Milano, che vorrei sentire immediatamente. Buongiorno Enrico. Buongiorno a voi tutti. Ci dica. Beh, diciamo che la risposta l'ho già sentita prima del suo intermezzo pubblicitario. Diciamo che come tanti io faccio fatica a pagare questo mutuo casa, che ho il mio lavoro, è un lavoro autonomo, e l'anno scorso chiesi alla banca una sospensione di mutuo e mi ha detto che, essendo un lavoratore autonomo, non posso beneficiare di questa cosa. La mia situazione, è lavorativa, è praticamente il fatturato è sceso moltissimo e ho sempre quelle due o tre rate indietro, poi ne pago una, la media è di due o tre. La banca temporeggia, mi chiama, mi raccomando, le solite cose. Adesso mi ha chiamato la banca di sua iniziativa dicendomi: ma potremmo prendere in considerazione la sospensione di un mutuo. Mi hanno chiesto l'unico, ho portato l'unico e sto aspettando. Anche perché prima pagavo regolarmente. Però certo, no, ma Enrico, se lei è un buon cliente, se la banca oggettivamente si rende conto che la sua è una difficoltà, non è che lei ci marcia, è una difficoltà oggettiva, appunto. Assolutamente no. E quindi, no, mi fa piacere che sia stata la banca di propria iniziativa appunto a chiamarla per proporle una sospensione, appunto, senza farle pagare oneri che sono salatissimi, quando invece appunto l'iniziativa non è ovviamente concordata con l'istituto di credito. Enrico, la ringrazio per aver sollevato il problema. Appunto, Federica Rossi Gasparrini, lei che è in contatto stretto con il sottosegretario all'economia, appunto, che ha parlato prima di questo fondo di solidarietà come una modalità innovativa di ammortizzatore sociale. Questo ammortizzatore serve anche alle partite IVA, ai lavoratori autonomi, come ha ribadito di nuovo il caso di Enrico. A che punto è anche questa battaglia, che comunque so che lei porta avanti? Come bisognerà riportare in Parlamento per rendere il fondo stabile nel tempo e rifinanziarlo, noi pensiamo nello stesso momento, abbiamo già chiesto come associazione un incontro col Presidente delle Commissioni Bilancio, Camera e Senato, pensiamo che sia il momento, però va in nella detta finanziaria, di inserire giustamente tutto il lavoro autonomo, perché non dimentichiamo dei sacrifici che fanno, del coraggio che hanno e del valore enorme per la nostra economia. Quindi sono persone che ha il coraggio di intraprendere, che vanno assolutamente tutelate. Non ci sono ostacoli adesso che il Fondo di Solidarietà è più stabilizzato. Cioè, prima c'erano confusioni un po' perché poteva essere chiesto l'aiuto per la ristrutturazione, che aveva portato a qualche anomalia nell'erogazione. Chiudiamo la parentesi, non trasparente. Però adesso che si è trovato un metodo, ho sentito prima Consap che sono veloci, in fondo ha trovato la sua strada. Adesso si tratta di dire che cittadini hanno diritto a questa semplicemente una sospensione, non viene dati molti soldi, solo viene aiutato il pagamento degli interessi e basta. Certo. No, quindi tra l'altro penso che ce l'ha con l'aiuto di Deborah sì. E anche altri colleghi del Sole. No, mi creda, serve l'aiuto della stampa e delle persone. Invito gli autonomi a rivolgersi a lei e alla radio. E io lo girerò a voi. Per aiutare a noi. No, ma diciamo però che avete più voce in diretta. Sì, per aiutarci. Anche perché altre trasmissioni si sono incaricate appunto delle problematiche di queste degli imprenditori, anche dei piccoli. Io mi riferisco a Simone Spezia con 9 in punto, a Sebastiano Barisoni con Focus Economia. Veramente abbiamo dato voce a tanti, a tantissimi, con qualche piccolo risultato, però non è stato ancora del tutto sufficiente tutto quello che abbiamo fatto. Il tema di Enrico, quello che mi fa pensare che è più difficile nel caso dei lavoratori autonomi individuare con grande precisione, onorevole Rossi Gasparrini, i requisiti che documentano appunto effettivamente la riduzione del fatturato piuttosto che appunto la diminuzione dell'attività dell'attività produttiva. E quindi, mentre per il lavoratore dipendente c'è il dato oggettivo, si perde il posto di lavoro appunto, e questo è certificato. Nel caso del lavoratore autonomo un po' più, forse per questo che ancora non si è andata avanti appunto con un'iniziativa strutturale per il lavoro autonomo, o no? Sì, certo, anche perché bisogna mettere in evidenza dati certi, cioè non si può fare una norma basata su dei dati incerti, quindi si deve dire il reddito e il periodo di reddito, questo almeno è quello che alla bilancio mi è stato detto. Certo. Chiarire bene quando un lavoratore autonomo è nelle condizioni di avere un aiuto dai cittadini, perché ricordo che questi finanziamenti oggi vengono dalla tasca di tutti noi cittadini. Esatto. E allora, questo è anche bello. Sì, sì, certo, come dire, in un'azione di solidarietà collettiva, tanto siamo un po' tutti in difficoltà, quindi aiutiamo chi lo è un po' di più attraverso i contributi che paghiamo appunto con le tasse. Vorrei sentire Pietro da Milano, perché invece è un caso un po' particolare di chi, per fortuna, dopo aver perso il posto di lavoro, lo ha ritrovato, aveva chiesto la sospensione. Pietro, e poi che cosa è successo? Buongiorno. Niente, dopo è successo che quando ho portato tutti i documenti alla banca del mio nuovo lavoro, più il lavoro anche di mia moglie, due buste, mi hanno detto: no, guardi, lei adesso purtroppo è in sofferenza, per cui non può aderire più a nulla, alla casa ho ci dà tutti i soldi, 143.000 euro. No, mi scusi, no, allora avevo capito male, mi faccia capire, lei aveva chiesto, aveva perso il posto di lavoro, adesso l'ha ritrovato, aveva chiesto la sospensione del mutuo? Avevo chiesto la sospensione del mutuo, ancora il lavoro non l'avevo trovato, la mia famiglia mi aiutava, certo, perché hanno un'attività indipendente, che anche quella poi è scesa, e automaticamente ho chiesto: fatemi rientrare. E lì purtroppo non ho potuto aderire. Poi è arrivato, okay, ho trovato il lavoro, ho parlato con la banca, mi hanno chiesto i documenti, gli ho dato tutti i documenti, dopodiché loro mi hanno detto: sì, abbiamo visto i documenti, però purtroppo lei è arrivato in sofferenza, cioè quando arrivi a 15.000 euro da pagare, no, di arretrati, ecco, quindi, loro dicono: cadi in sofferenza, per cui adesso sei morto, non hai più un valore, automaticamente ci devi dare tutti i soldi indietro, non possiamo farti mutuo. Vabbè. Allora io ho preso i miei due figli, 3 anni, 5 anni, gli ho detto: ragazzi, siamo in sofferenza. Vabbè, quindi Pietro, praticamente adesso lei non può riprendere, lei lo sta pagando adesso il mutuo, perché questo che non riesco a capire? No, perché mi hanno chiuso il conto, avevo anche 2.000 euro da pagare sul conto, le hanno messe insieme a quelle e hanno chiuso il conto. Qua stiamo parlando, grazie Pietro, allora, da una banca che addirittura chiama di sua iniziativa Enrico, come ci ha raccontato prima, e lo aiuta, gli chiede: guarda, vediamo di valutare la tua situazione, anche se sei un lavoratore autonomo, ti diamo la possibilità di sospendere appunto il tuo finanziamento, e quindi insomma un'azione di grande responsabilità. Chi invece qua non vuol sentir nulla. Avvocato Ferrari, come commentiamo il caso di Pietro, che non è esattamente allineato con quelli che stiamo affrontando questa mattina? Però adesso lui lavora, anche se è indebitato fino al collo con la banca, chiederebbe di poter rientrare, magari non può. Pietro, perché non ci scrive, perché che chiediamo informazioni, tra l'altro? Avvocato. Allora, ma diciamo che da questo caso bisogna tanto trarre un consiglio da dare a tutti, cioè di continuare a pagare le rate finché è possibile, perché per accedere a fondi come questo è necessario essere in pari col pagamento delle rate, oppure essere indietro al massimo di 3 rate. Il caso, e quindi chi è indietro oltre non può più accedere al fondo, ed è il caso di questo ascoltatore che ha telefonato, il quale addirittura non è neanche più in carico della filiale evidentemente, ma è stato passato a sofferenza, quindi a questo punto lui dovrebbe trattare con chi si occupa della gestione crediti all'interno della banca, perché con loro secondo me può fare un piano di rientro, esatto, però non si può riprendere a pagare le rate, no, ecco, perché ormai quel contratto è morto, diciamo. Banca gli sta dando le informazioni giuste. Detto questo, per 15.000 euro io non vedo neanche, come dire, la necessità di essere così rigidi, non trova? Sì, anche perché oggi le banche si trovano in una situazione ben diversa dal passato, cioè anche loro, se vogliono vendere all'astra gli immobili, fanno fatica, ecco. Quindi hanno molto più interesse a recuperare delle situazioni che tutto sommato sono recuperabili come questa. Certo. Allora, tra l'altro, avvocato Ascioti, non so se anche questa è una domanda di pertinenza CONSAP, ma qualora effettivamente in un anno e mezzo appunto può succedere di tutto e appunto il lavoratore che ha chiesto la sospensione può effettivamente, e lo auguriamo a tutti, ritrovare un posto di lavoro, può eventualmente chiedere di sospendere la sospensione? Assolutamente sì, anzi espressamente previsto dalla norma che in caso di scelta, perché non è connessa necessariamente al venir meno della condizione che ha posto la sospensione, il mutuatario in ogni momento può chiedere l'interruzione della sospensione e riprendere il pagamento delle rate di mutuo. Perfetto. Quindi, ovviamente in questo caso, ma è una cosa alla quale il mutuatario rimane estraneo, ovviamente il fondo rimborserà solamente gli interessi scaduti nel periodo di sospensione, questo è evidente. Il termine, diciamo, di 18 mesi è un termine massimo. All'interno di questo termine, in qualunque momento, la sospensione può essere interrotta. Benissimo, e appunto ribadisco, noi lo auguriamo effettivamente a tutti coloro che hanno dovuto invece fare richiesta appunto di sospendere il rimborso delle rate. Volevo sentire Sergio dalla provincia di Frosinone, che ha un caso che credo tra l'altro avrà una risposta in tempi rapidissimi. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Io nel mese di ottobre ho contratto un mutuo di circa 20.000 euro, e purtroppo siamo andati in cassa integrazione e mi sono recato in banca, alla filiale, per chiedere se potevo sospendere. Ma è un mutuo o un prestito, Sergio? Perché un 20.000... prestito, un prestito. Ecco, perché è una cosa diversa, il mutuo per l'acquisto della prima casa... Adesso ascoltavo e mi sono reso conto. E niente, mi hanno detto che è impossibile sospendere, ma al limite può saltare la rata. Ma certo. Allora Sergio, in realtà, se non mi ricordo male, vado velocemente a Federica Rossi Gasparrini, dopodiché la salutiamo, perché appunto ci aveva chiesto di rimanere in diretta con noi solo fino a quest'ora. Nella versione, diciamo, del piano famiglia c'era la possibilità anche di sospendere eventualmente i prestiti. Non credo che venga contemplata questa opzione nel fondo di solidarietà. Tanto più che abbiamo dovuto fare una legge, cioè la norma è una norma legislativa ormai strutturata ed è proprio per la prima casa. Voglio ricordare che gran parte della crisi mondiale economica è legata agli americani che hanno smesso di pagare i mutui per le case e hanno lasciato le case alle banche. Cioè, come diceva giustamente lei, per la banca oggi è un'alleata formidabile per tutti noi per salvare le nostre case, perché è interesse della banca tanto quanto del infatti anche perché attivare le procedure di pignoramento, per carità, magari entreranno anche in possesso di un immobile, ma sono procedure lunghe, costose, fastidiose. Qualche volta magari la banca si ritrova anche sul groppone immobili che non riesce a ricollocare sul mercato con facilità, per cui vabbè. Onorevole Rossi Gasparrini, noi la ringraziamo per essere stata con noi anche questa volta, l'aspettiamo presto per notizie positive sul fondo di solidarietà, speriamo che lo strutturino entro la fine dell'anno e soprattutto ci porti buone notizie per le partite IVA, d'accordo? Grazie, grazie anche a lei. 800 24 00 24, il numero verde se volete intervenire in diretta per raccontarci della vostra condizione, speriamo assolutamente temporanea e momentanea, di difficoltà a rimborsare il mutuo, un tema che avremo affrontato centinaia di volte nel corso degli ultimi anni. Ne ritorniamo a parlare oggi perché abbiamo fatto un bilancio sul fondo di solidarietà operativo dal 27 aprile scorso, una riedizione per la verità, è un fondo che consente appunto alle famiglie che ne hanno bisogno di sospendere nel rimborso della rata quota per un massimo di 18 mesi, però in realtà appunto ci sono dei requisiti molto stringenti, non tutti ci ricadono dentro e quindi ci sono appunto molte famiglie che magari per un piccolo particolare appunto non riescono ad essere accontentate dalla banca. Sentiamo Roberto da Torino, che forse non aveva proprio una domanda ma era più un commento. Il suo Roberto, buongiorno. Buongiorno a lei, salve, buongiorno a tutti. Io brevemente confermo quello che ha detto poc'anzi un ascoltatore sul discorso che le banche provvedono, ed a me sta succedendo, di contattare loro un partita IVA come il sottoscritto. Quindi confermo. E anche la trasparenza su alcuni tipi di informazione, su come diciamo funzionerebbe il meccanismo. Meno male, va. Se no le bastoniamo sempre. L'unica cosa che ho sollevato la questione è che nel parlare di sospensione, di fatto però poi nella modulistica che loro provvedono a dare si parla di un nuovo mutuo che avrà le stesse caratteristiche di spread, tassi e quant'altro, però me l'hanno venduto, io sicuramente sarà così, come un nuovo mutuo perché ha un nuovo periodo di ammortamento. Chiaro è che poi la persona, quando si vede sottoporre un nuovo mutuo con scrittura privata, come dire, ha bisogno un po' di scetticismo. Sì, credo almeno, certo. Io non sono diffidente di natura, però è chiaro che Con le banche diciamo che ci hanno insegnato ad esserlo sempre. Rimane così, ecco, solo una segnalazione. La ringrazio Roberto, magari approfondiremo anche questo aspetto. Avvocato Ascioti, per quello che riguarda invece il funzionamento del fondo di solidarietà, nel momento in cui una famiglia lo chiede in banca e poi la pratica passa a voi, quando la persona interessata ricomincia a pagare, perché i 18 mesi sono terminati, ricomincia a pagare un mutuo nuovo? No. Riprende il pagamento delle rate del mutuo precedente, del mutuo in corso. Certo, no, Roberto è in una condizione particolare perché appunto lo ha specificato, è un lavoratore autonomo, per cui è chiaro che qui la banca avrà trattato e negoziato in maniera diversa. Probabilmente sì, siamo al di fuori delle ipotesi di accesso a questo fondo di solidarietà, essendo il signor Roberto un lavoratore autonomo, quindi non so come possa essersi regolata la banca. Certo. Per quello che riguarda le istanze di accesso al fondo che gestiamo noi, con la ripresa del pagamento delle rate prosegue il mutuo che è stato appunto sospeso. Ci dia qualche chiarimento, avvocato Ascioti, sui tempi. Allora, ammettendo di essere in difficoltà, io domattina vado in banca con tutta la documentazione che magari ho proprio stampato dal sito del Ministero dell'Economia o direttamente dal vostro sito, tutta compilata, chiedo alla banca appunto di poter accedere a questa misura. Entro quanto la banca trasferisce a voi questa documentazione ed entro quanto io dovrei avere una risposta, se sì o no? Guardi, la banca ha 10 giorni di tempo per raccogliere la documentazione da trasmettere a Consap. Una volta che la istanza così completa, quindi di ogni documento di supporto, perviene a Consap, Consap deve comunicare rigorosamente entro i successivi 15 giorni l'accoglimento o meno dell'istanza di sospensione. Uh-huh. A questo punto poi è la banca che entro non so quanti giorni ricomunica il... Adesso lo ripesco perché anche io credo che abbia un tot di giorni appunto fissati per legge. Adesso lo ripeschiamo volentieri. Comunque in ogni caso non va, come dire, come si dice in gergo, per le calende greche, no? Questa risposta. Assolutamente no. Mi sembra che siano 5 giorni. Sì, anche quindi anche una settimana, diciamo, 5 lavorativi. Ma diciamo che sostanzialmente nell'ambito di un mese o poco più la banca dà il via libera o meno. Dà il via libera alla sospensione. Poi da quando la sospensione effettivamente opera mi sembra siano entro i successivi 30 giorni. Certo. Beh, anche perché se uno di accoglimento. Se uno rimane senza stipendio, chiaramente non è che può per 3 mesi pagare comunque il mutuo e prosciugare tutti quei pochi soldi che saranno rimasti sul conto corrente. È chiaro che funzionando come un ammortizzatore sociale ci si deve anche sbrigare effettivamente a dare una risposta. Comunque mi scusi, dottoressa, tenga presente che l'eventuale sospensione, la già intervenuta sospensione della rata, il mancato pagamento della rata, se non protratto per un periodo superiore a 3 mesi rientra nei termini di sospensione. Esattamente, ha fatto bene a ricordare diciamo questo aspetto. I tempi di istruttoria e di decisione sono commisurati proprio a questo periodo di 3 mesi entro il quale si possono far ricadere le rate che già precedentemente alla sospensione concessa non sono state pagate. Ottimo. Allora, Liliana da Belluno, l'ultimo caso che raccogliamo oggi. Buongiorno Liliana, benvenuta. Aveva già fruito della sospensione qualche anno fa con il piano famiglia, giusto? Sì, buongiorno. No, a me è successo, io ho un caso un po' particolare. Nel 2009, prima che ci fosse il piano famiglie, c'è stata una convenzione fra le prefetture della provincia di Belluno e l'Istituto di Certo, sì, perché poi molti enti locali si sono mossi effettivamente di propria iniziativa, sì. Non della provincia, della regione Veneto, a dire il vero, e degli istituti di credito per poter sospendere queste rate del mutuo. Io mi sono rivolta alla banca perché mio marito nel frattempo era entrato in cassa integrazione e mi è stata concessa una sospensione del mutuo, o perlomeno ho fatto una rinegoziazione e il mutuo è rimasto sospeso per 6 mesi e sono state portate avanti le scadenze del mutuo di 6 mesi. Successivamente, continuando ad esserci questa cassa integrazione, e premetto c'è tuttora, io ho usufruito anche del piano famiglie, quindi della sospensione per un anno. L'anno nel 2010, però dopo nel 2011 addirittura, adesso non mi ricordo, comunque ho usufruito anche dell'anno, quindi un anno di piano famiglie e 6 mesi con quella rinegoziazione. Ora io nel frattempo ho perso il lavoro, quindi mi sono trovata disoccupata e avendo l'opportunità con questa sospensione nuova ho fatto subito richiesta alla banca il 29 di aprile. Però le hanno detto? I requisiti ci sarebbero tutti, ma non ho diritto perché ho già usufruito i 18 mesi. Ah, ecco, allora, qua è un caso un po', bisognerebbe sentire Federica Rossi Gasparrini che ci ha dovuto lasciare. Sentiamo, allora, teoricamente, secondo me lei potrebbe accorpare il piano famiglia con la nuova iniziativa, però non so per quale motivo appunto la banca considera validi i 6 mesi che appartenevano ad un'altra iniziativa, non erano quelli del piano famiglia. Avvocato Ferrari, vuole commentare questo caso? In realtà brancoliamo un pochino nel buio, però, perché Liliana dice teoricamente 18 mesi li ha già fatti, ma i 6 mesi iniziali non appartengono a nessuna delle iniziative di sistema delle quali abbiamo parlato, per cui non so perché la banca li accorpi. Sì, teoricamente non appartengono a nessuna, mi sembra però per la verità che la legge faccia riferimento a sospensioni comunque già fruite generiche, con intervento pubblico o comunque negoziato, per cui se lì non si è trattato diciamo di un accordo tra la banca e il cliente, ma comunque di una cosa pilotata sulla base di fondi regionali, eccetera, c'è già stato un intervento di favore e comunque potrebbe accumularsi nei 18 mesi. Penso che questo sia stato il ragionamento di Consap. Certo. Allora sentiamo se l'avvocato Asciotti di Consap vuole precisare ulteriormente questo caso. Perché il tempo dei 18 mesi è previsto come periodo massimo di sospensione indipendentemente dall'iniziativa di solidarietà o di appoggio, qualunque essa sia. Certo, quindi sono 18 mesi considerati per la banca. Se quella banca ha già fatto una sospensione di 18 mesi, da dove arrivino i 6? Non le interessa? Non ha importanza, certo. Diciamo, ecco, se fosse stata concessa una sospensione di iniziativa della banca di 6 mesi, il cittadino, quel mutuatario potrebbe accedere al fondo gestito da Consap per non più di 12 mesi. Un totale quindi comunque che non può superare i 18 mesi. Quindi Liliana, purtroppo non le diamo buone notizie, l'unica cosa che la banca può fare di sua iniziativa, se vuole appunto eventualmente concederle un altro po' di respiro, ma lì deve deciderlo appunto il direttore. Avvocato Asciotti, noi stiamo chiudendo, 10 secondi per un'ultima raccomandazione, ci siamo dimenticati di dire qualcosa? Diciamo sostanzialmente no, l'unica raccomandazione che tengo a fare ai mutuatari di essere quanto più collaborativi nella rappresentazione della loro situazione alla banca, perché tanto meglio viene rappresentata la situazione attraverso i documenti utili e idonei a seconda dei casi, quanto più viene agevolato il lavoro della banca stesso, il lavoro nostro e quindi la rapidità di risposta. Allora, magari andate in banca dopo aver già dato un'occhiata sul sito della Consap, www.consap.it, e quindi verificate tutti i documenti che servono e andate in banca già belli pronti, agguerriti. Grazie a tutti per essere stati con noi, torniamo domani, buona giornata. We'll be right back.